perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oggi pomeriggio il governo vara la legge di stabilità. Renzi parla di 18 miliardi di tagli di tasse. Non è scontato il via libera di Bruxelles, spiega il responsabile economico del PD. Altre tre vittime per le piogge e le esondazioni. Due in Toscana ieri, una oggi in provincia di Trieste. Parma ancora in difficoltà, anche qua sotto accusa, i lavori mai fatti. Ci sono circa 60.000 permessi di soggiorno persi a Genova nell'ufficio immigrazione. Aveva subito abusi sessuali la bimba di 6 anni caduta da un balcone a Caivano. Un caso simile un anno prima, all'ombra di un giro di pedofilia. Nuovo caso di Ebola in Texas, è contagiato un aiuto infermiere. La crisi non finirà presto, dice Bruxelles, cruciali controlli in uscita dai paesi colpiti. Un maestro elementare sospeso e arrestato per maltrattamenti sui bambini. Era stato già segnalato l'anno scorso e nel frattempo aveva lavorato in altre 3 scuole. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Il numero, se volete scriverci in diretta, come sempre, 349-238-6666 e l'email è effettogiorno@radio24.it. In apertura, la manovra al varo dell'esecutivo. Oggi in diretta Alessandra Schepisi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Legge di stabilità davvero in dirittura d'arrivo, anche se mancano alcuni dettagli, tant'è che la riunione del Consiglio dei Ministri, inizialmente prevista per le 15, è stata posticipata alle 18. Obiettivo rilancio della crescita e dei consumi, il valore di 30 miliardi di euro, di cui 11,5 finanziati in deficit, cioè attraverso un margine che in sostanza il governo ha deciso di prendersi nel rapporto deficit-PIL dal 2,2 al 2,9, comunque al di sotto del 3% consentito dall'Europa. 16 miliardi arriveranno dai tagli alla spesa pubblica improduttiva, 18 miliardi di tasse in meno rispetto al 2014 ci saranno in questa manovra. La conferma arriva con un tweet dello stesso Renzi. Per le imprese diventa infatti più leggera l'IRAP, dalla quale sarà interamente deducibile il costo del lavoro per un valore di 6,5 miliardi di euro, mentre arriva 1 miliardo per la totale decontribuzione per 3 anni dei neo assunti. Misure che soddisfano Confindustria. Avanti tutta, però, dice il presidente Squinzi, anche con la riforma del mercato del lavoro. Sentiamo la sua voce. Non c'è più tempo per attendere, per verificare, per fare calcoli o compromessi. Bisogna agire. Occorre farlo subito, fissando l'agenda su poche e chiare priorità da realizzare sul serio. Mi riferisco innanzitutto alla riforma del mercato del lavoro. Occorre un cambio di rotta deciso, un forte segnale di discontinuità. Vanno superate le rigidità e le complicazioni di una legislazione del lavoro che appartiene ad un'altra epoca della nostra storia economica e che sono fra i motivi che impediscono il rilancio economico ed occupazionale del nostro Paese. E poi c'è la conferma del bonus degli 80 euro, l'operazione TFR in busta paga dovrebbe partire dalla seconda metà del 2015, stiamo valutando se inserirla nella legge di stabilità o in un collegato, ha detto il responsabile economico del PD Taddei. Il punto però è sempre la sostenibilità dell'intera manovra, sullo sfondo, come sappiamo, il braccio di ferro con Bruxelles. Non è scontato che la Commissione UE dia il suo assenso, ha detto lo stesso Taddei. Il governo avrebbe comunque pronto un tesoretto da 2 miliardi di euro per far fronte a eventuali interventi sul deficit. Da Roma è tutto. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi, ed è proprio da qua che ripartiamo, dalla questione dei conti e di come si fanno tornare i conti di questa legge di stabilità, e siamo con Dino Pesole del Sole 24 Ore. Dino, buongiorno. Buongiorno. Allora, tra tesoretto e il rischio che Bruxelles, come dice Taddei, alla fine questa manovra la bocci. Più che tesoretto, diciamo che il governo sta cercando di ritagliare all'interno della manovra uno spazio di bilancio per far fronte alle richieste che vengono da Bruxelles, e questo credo che poi alla fine avverrà, perché Bruxelles già ci ha sostanzialmente fatto uno sconto, per così dire, perché le regole europee prevedono che noi dovremo tagliare il deficit strutturale dello 0,5% del PIL ogni anno, e ora ce ne chiede lo 0,25, che equivale a 2,4 miliardi, quindi probabilmente alla fine si troverà una linea di compromesso, fermo restando che il problema fondamentale sono le risorse. E quindi grande attesa per capire come verranno ripartiti i tagli. I tagli di spesa, dici, naturalmente. I tagli di spesa, perché questa è la partita decisiva di questa legge di stabilità, e non solo per i suoi equilibri finanziari interni, anche agli occhi di Bruxelles, perché un po' tutti si stanno concentrando sulla possibile bocciatura da parte della Commissione se noi non rispettiamo il target del pareggio di bilancio. Ma in realtà, secondo me, a Bruxelles interessa molto di più capire se buona parte della manovra è finanziata sul serio da tagli veri, strutturali, che sono gli unici in grado di poter sostenere una manovra di riduzione delle imposte come quella ipotizzata dal governo. Quindi, insomma, la faccenda è piuttosto seria. Credo che ci siano delle ottime possibilità che il governo possa farcela, considerato che ci sono misure di grande importanza come il taglio dell'IRAP. Però attenzione alle coperture, assolutamente. Allora, avremo modo di vedere naturalmente nel pomeriggio, quando si chiuderà il Consiglio dei Ministri. Intanto ringrazio Dino Pesole del Sole 24 Ore e noi passiamo alle cronache ancora una volta del maltempo, che in questo caso ha colpito, più che del maltempo, delle vere e proprie alluvioni che hanno colpito in questo caso nuove zone, in particolare la Toscana, la Maremma e la provincia di Trieste e Trieste stessa. Raffaella Calandra in diretta qua in studio per gli aggiornamenti. Raffaella. Sì, Simone, un cumulo di fango al posto della strada, brandelli di muro sulla vita di una passante. Potremmo dire che l'ultima immagine di questa Italia fragile e l'ultimo lutto di un paese che trema ogni autunno arriva oggi dal Triestino, dove una donna è stata travolta da una frana a Muggia. Ultima vittima di un'infinita emergenza maltempo dopo le due sorelle della Maremma e il pensionato di Genova. Lorella Cherel, 73 anni, è stata investita dal fango che ha invaso il lungomare di Muggia quando i vigili del fuoco l'hanno trovata, ormai era senza vita. Frane e smottamenti bloccano qua e là le strade in provincia di Trieste e in città, dove l'acqua non lascia in pace nemmeno i morti. Allagato l'obitorio, sono stati sospesi i funerali. È corsa da una parte all'altra da parte della Protezione Civile per evitare altri smottamenti, come ci dicono dalla sala operativa di Trieste. La situazione è in verifica perché ci sono ancora operazioni in corso, sta rientrando a grandi linee perché non sta piovendo, è la zona di Muggia, quindi è a est di Trieste. È un distacco multiplo avvenuto per precipitazioni, quindi dall'acqua. E mentre in Friuli ora il cuore dell'emergenza, la Toscana, l'Emilia e il Basso Piemonte cominciano a calcolare i danni, ricostruire le cause degli allagamenti e tornare alla normalità. Sono i lavori non fatti al centro dell'inchiesta della Procura di Grosseto sulla morte delle due anziane sorelle di Manciano, trascinate dalla pioggia e dall'auto. I lavori per la sicurezza del territorio, per cui i fondi erano stati già stanziati ma ancora una volta non ancora spesi. A Parma, disagi e allagamenti ancora in diverse zone, il bel tempo aiuta. Il ritorno alla normalità quando sembra ormai chiaro quello che già il sindaco Federico Pizzarotti ammetteva lunedì sera ai nostri microfoni, cioè che l'esondazione del Baganza sarebbe dovuta proprio all'assenza della cassa di espansione intorno al torrente, ancora una volta un lavoro non fatto. Quella stessa cassa di espansione che invece ha impedito al Parma di inondare i campi vicini. Da est a ovest le immagini dal centro nord del paese sono ancora da day after, il fango nell'Alessandria, i danni in Toscana, dove pure il pecorino Doc pare abbia subito notevoli danni. Simone. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, e più tardi ci collegheremo proprio col sindaco di Muggia per capire com'è la situazione. Intanto a Genova, alla questura, l'ufficio immigrazione è stato praticamente cancellato dall'acqua e dal fango. Più di 60.000 fascicoli sono andati distrutti. I permessi di soggiorno in fase di emissione sono stati recuperati e lavati uno a uno per poter essere successivamente consegnati. Distrutta anche una fornitura di divise, tra le auto danneggiate e la vettura blindata assegnata all'arcivescovo Bagnasco. Il racconto del dirigente dell'ufficio immigrazione Marco Allegretti, intervistato da Andrea Ferro. È stato tutto distrutto, sia le suppellettili che tutto l'apparato informatico, che è fondamentale perché le pratiche sono tutte trattate elettronicamente, che è tra un terzo e la metà dell'archivio. Ora i dati? Allora, i dati non subiscono gravissimi danni, in quanto tutti i dati essenziali sono salvati elettronicamente. E la maggior parte degli altri dati che sono necessari possono essere reperiti anche presso altre amministrazioni, quindi i fascicoli potranno essere in qualche modo ricostruiti. Ad ogni modo faremo tutto il possibile affinché non ci siano disagi o ritardi per la nostra utenza, che sono praticamente gli stranieri che necessitano di permesso di soggiorno. Quanti fascicoli? Ma guardi, a livello di numero ancora non sappiamo. Le do un dato, diciamo, lineare, circa su un chilometro lineare di archivio che è perduto. Decine e decine di migliaia di persone. Sì, esattamente, sì, esattamente. 60.000? Sì, ma è una cifra attendibile. Ad ogni modo teniamo presente che abbiamo recuperato i permessi di soggiorno che erano in consegna, quasi tutti. Li stiamo, essendo elettronici, non sono stati danneggiati dall'acqua, li stiamo lavando, asciugando e catalogando in modo da poterli poi consegnare appena potremo riacquistare la nostra operatività. C'è stata una telefonata questa mattina tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Petro Poroshenko sul conflitto nel sud-est dell'Ucraina e in vista del vertice ASEM di Milano nel quale i due dovrebbero incontrarsi. Intanto la città si prepara ad accogliere questo vertice tra grandi misure di sicurezza e moltissime complicazioni per i cittadini. In arrivo a Milano 50 capi di Stato e scattano le misure di sicurezza, le più alte mai viste nel nostro paese. Facile immaginare che ci saranno forti disagi per chi dovrà spostarsi in città e il comune invita i cittadini a lasciare a casa l'auto e preferire i mezzi pubblici. Tre le zone rosse previste, cioè i due aeroporti di Malpensa e Linate, la zona di Fiera Milano City e quella di Palazzo Reale. Proprio qui, nel cuore della città, domani sera ci sarà infatti la cena di gala offerta dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'intera area è stata bonificata dagli artificieri e domani verrà chiusa al pubblico la zona circostante, di fianco al Duomo. Non ci sono manifestazioni autorizzate in questi tre giorni, ma le forze dell'ordine temono soprattutto l'iniziativa di gruppi anarchici. Saranno 2.000 carabinieri, poliziotti e finanzieri ad occuparsi della sicurezza e della protezione dei capi di Stato nei loro movimenti. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, l'ATM non ha potenziato la rete. Domani, dalle 14 alle 24, per esigenze di sicurezza, non si potrà accedere alla stazione della metropolitana Duomo, né in entrata né in uscita. Inoltre, alcune vie potrebbero essere bloccate al traffico. Le pattuglie della polizia locale indicheranno percorsi alternativi. Marcella Vezzoli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alle cronache di Ebola. Il numero di nuovi casi di contagio potrebbe salire a 10.000 alla settimana entro l'inizio di dicembre nei tre paesi più colpiti dell'Africa occidentale. I dati sono di stamattina dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per fare un punto, e non solo per fare un punto, anche per raccontarci come è trascorso la mattina, Cristina Carpinelli, la nostra collega in studio, che è andata tra l'altro all'ospedale Sacco per cercare di capire come funzionano le cose. Iniziamo però dalla cronaca di giornata, Cristina. Allora, intanto chiariamo ogni dubbio. I casi accertati in Italia di Ebola sono zero, cioè ci sono stati dei sospetti, uno a Brescia, uno a Savona, ma in entrambi i casi si è trattato di un falso allarme. L'allerta resta comunque alto, anche perché le notizie ci raccontano che in Texas c'è stato un nuovo contagio. A risultare positivo al test è un dipendente del servizio sanitario locale, si tratterebbe dell'infermiera che si occupava del paziente liberiano poi morto. Le condizioni della donna sono comunque buone e stazionarie. Ovviamente la donna è in isolamento nel rispetto delle procedure previste in questo caso. E Simone, tu parlavi del Sacco, a proposito di procedure, noi siamo andati proprio a vedere come si lavora al Sacco e quali saranno le procedure messe in campo in caso di emergenza. Ricordiamo che l'ospedale Sacco di Milano, assieme allo Spallanzani di Roma, è uno dei centri predisposti per l'accoglienza di malati con Ebola conclamato. Allora, al Sacco c'è un intero reparto ad alto isolamento con docce di decontaminazione in ingresso e in uscita, 50 infermieri e 35 medici sono specializzati e sono pronti per l'arrivo di un malato di Ebola. L'ingresso alla zona dedicata ad Ebola è nell'ala destra del pronto soccorso e qui sono state allestite le stanze prima per la diagnosi, poi un sospetto contagiato viene immediatamente separato dagli altri, quindi non fa la fila in sala d'attesa. Ci sono telecamere ovunque per monitorare ogni cosa avvenga all'interno. Le analisi del sangue vanno in un laboratorio speciale che si chiama BSL4, dove le attrezzature verranno utilizzate solo per il sangue del sospetto, e poi nel caso si tratti di un sospetto accertato, il paziente a questo punto va nelle stanze ad alto isolamento. Sono 8 stanze al piano terra, hanno un riciclo d'aria speciale, le docce decontaminanti disinfettano qualsiasi cosa entri o esca. Questo è quanto ci hanno spiegato gli esperti, le persone che ho incontrato stamattina. Tra loro c'era il professore Giuliano Rizzardini, dirigente del Dipartimento Malattie Infettive del Sacco, che è tra l'altro una tra le persone più competenti sul tema a livello europeo. Sentiamo. Viene ripatriato con delle protezioni specifiche da barella isolamento, ambulanza tra virgolette blindata e viene portato direttamente qua al Sacolo Spallanzani e lì viene ricoverato appunto in queste stanze ad alto isolamento che hanno un percorso di entrata completamente separato dal resto dell'ospedale. Qui c'è un'equipe che sarà dedicata a questo con operatori che appunto si alternano sull'assistenza al paziente. E ora ringraziamo Cristina Carpinelli e andiamo ad una vicenda di cronaca che sembrava semplice per quanto terribile, una bambina di 6 anni caduta da un balcone, ma spunta l'ipotesi di un giro di pedofilia. Dopo la morte apparentemente dovuta ad una caduta da un balcone del palazzo in cui abitava era già nato il sospetto di violenze sessuali, ora la certezza è data dal risultato dell'autopsia. Fortuna Loffredo, la bambina di 6 anni morta il 24 giugno scorso a Caivano, da tempo era vittima di abusi sessuali. Quindi dopo l'ipotesi di caduta accidentale, il lavoro coordinato dal procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco, e dei carabinieri procede alla ricerca del responsabile dell'omicidio volontario e delle violenze sessuali, che la perizia dell'anatomopatologo considera avvenute nell'arco dei 2 mesi prima della morte della piccola. E non si ometterà di valutare anche altro, perché ci sono molte similitudini con un'altra morte avvenuta circa un anno fa. Da un balcone dello stesso palazzo del Parco Verde di Caivano era caduto un bambino di 3 anni, Antonio Giglio. Il giorno in cui Fortuna ha perso la vita, tra l'altro, era stata a giocare a casa della sorellina di Antonio. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ci fermiamo per il traffico e poi c'è già qua in studio con me Gianni Trovati del Sole 24 Ore, perché sicuramente non ve ne siete scordati, domani c'è la scadenza della TASI. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E di notizie ce n'è prima di tutto una appena arrivata. A quanto pare, almeno a quanto sostiene il Cremlino, ci sarà un vertice a 7 a Milano nell'ambito del vertice dell'ASEM, una sorta di colazione di lavoro alla quale parteciperanno il Presidente del Consiglio Renzi, oltre che Germania, Francia, Russia e Ucraina, per parlare proprio della crisi ucraina. Oggi pomeriggio intanto il governo varra la legge di stabilità, Renzi parla di 18 miliardi di tasse, il responsabile economico del PD dice che non è scontato il via libera di Bruxelles. Altre 3 vittime per le piogge e le esondazioni, 2 in Toscana ieri, 1 oggi in provincia di Trieste, Parma ancora in difficoltà e anche qua sono sotto accusa i lavori mai fatti. Un nuovo caso di Ebola in Texas, è stato contagiato un altro infermiere. Siamo con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. L'uomo delle tasse. Allora Gianni, scadenza TASI domani. Scadenza TASI domani in 5.200 comuni, cioè nella maggioranza, nei quali non si è pagato l'acconto a giugno. Chi invece sta nei 2.200 comuni che hanno deliberato prima e ha pagato l'acconto TASI a giugno deve stare tranquillo, non ha nulla da fare e l'appuntamento per lui, come per tutti gli altri, e poi per il saldo di dicembre. Soprattutto le prime case, perché il 90% dei comuni ha applicato l'aliquota sull'abitazione principale, un'aliquota che oscilla intorno al 2 per mille, quindi il doppio dello standard. Sono circa 15 milioni i contribuenti chiamati all'appello entro appunto domani per l'acconto, e poi il saldo si pagherà a dicembre. Una cosa forse utile da dire è che soprattutto per gli affittuari o comunque per i proprietari di piccole case, quando il conto è di pochi euro, poche decine di euro, e può essere, diciamo, più comodo pagare tutto in unica soluzione, si può fare, si paga tutto domani, si barra sia la casella conto sia la casella saldo nel modello, e a dicembre non bisogna fare più nulla per non pagare una rata di 10 euro domani e una altrettanto di 10 euro a dicembre. Allora, grazie al nostro Gianni Trovati per questi chiarimenti e aggiornamenti che speriamo siano utili anche ai nostri ascoltatori. Saluto Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme istituzionali. Scalfarotto, buongiorno. Buongiorno. A voi. Buongiorno e benvenuto. Con lei vogliamo parlare di unioni civili, perché oggi sono diffuse queste indiscrezioni secondo le quali l'esecutivo avrebbe pronto un piano che prevede l'istituzione di unioni civili solamente per le coppie omosessuali. Ci dice innanzitutto se è vero? Ma diciamo che il Presidente del Consiglio sono almeno 2 anni che dice che l'Italia deve allinearsi al resto dei paesi dell'Europa occidentale, di molti paesi anche di altri continenti, penso a molti stati degli Stati Uniti, del Sud America, la stessa Argentina per dire, prevedendo una norma per le unioni omosessuali, anche perché la Corte Costituzionale sono almeno 4 anni dal 2010 che ha dato un monito al Parlamento affinché legiferi su queste unioni, e abbiamo anche cause pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi l'Italia è inadempiente. Esiste un disegno di legge parlamentare, diciamo più disegni di legge che sono in questo momento seguiti dalla senatrice Cirinnà nella Commissione Senato, Giustizia del Senato. Il governo naturalmente osserva il procedere di questo iter legislativo. Ove mai non dovessero sbloccarsi le cose, evidentemente saremo pronti eventualmente anche a un disegno di legge governativo. Siete pronti ad un disegno di legge governativo, anche perché mi sembra di capire che da questo punto di vista la decisione del Ministro dell'Interno Angelino Alfano di chiedere ai prefetti, di chiedere ai comuni sostanzialmente di non registrare i matrimoni contratti all'estero debba imprimere o possa imprimere un'accelerata a questa azione. Ma sì, guardi, purtroppo noi siamo in una situazione che davanti all'inerzia del Parlamento stanno decidendo naturalmente i giudici per molti versi. Io ricordo per esempio la recente sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto la responsabilità genitoriale a una donna rispetto alla figlia della sua compagna. Penso allo stesso Tribunale di Grosseto che ha ordinato al sindaco di Grosseto la trascrizione del matrimonio. È stato il primo matrimonio trascritto da un sindaco, questa trascrizione è venuta su ordine del Tribunale. Come ho detto, la stessa Corte Costituzionale ci sta dicendo che una coppia omosessuale è una formazione sociale di quelle di cui parla l'articolo 2 della Costituzione, che vanno regolamentate. Quindi se la politica non agisce, diciamo la società e la storia non si fermano e la politica alla fine ne risulta sconfitta. Ancora una cosa però non ho capito, ma quest'ipotesi di prevedere unioni civili solamente per le coppie omosessuali è in gioco, è in ballo oppure no? E non rischia di essere incostituzionale un'ipotesi di questo genere, Scalfarotto? Guardi, questa domanda, così come il titolo di Repubblica, a me lascia molto sorpreso, perché si confondono due situazioni che non hanno nulla a che vedere. Una questione è la questione delle persone omosessuali che non possono sposarsi. Un'altra questione è la questione di quelle coppie eterosessuali o omosessuali che non vogliono sposarsi. Allora qui il problema è che in altri paesi si è semplicemente allargato il matrimonio a tutti. Quindi che cosa si è detto in Spagna, in Olanda, in Francia, in Belgio, in Gran Bretagna, in Svezia, e smetto per carità di patria, che il matrimonio era aperto a tutte le coppie. In Italia stiamo decidendo di prendere una posizione più prudente e quindi di riservare le coppie gay non il matrimonio, come succede, ripeto, in tutti questi paesi, ma un'unione che ha un altro nome. Ora, poiché le due unioni avranno contenuto praticamente identico, non si capisce per quale motivo una coppia eterosessuale dovrebbe non voler sposarsi, ma utilizzare il matrimonio, diciamo, surrogato che a fini di compromesso viene offerto alle coppie omosessuali. Se parliamo di coppie non sposate, e quindi che non vogliono sposarsi e che non vogliono quindi i doveri del matrimonio, oltre ai diritti, quei doveri mica possono essere imposti. Allora, queste persone hanno bisogno di altre cose, hanno bisogno per esempio di potersi andare a trovare in ospedale senza che qualche medico zelante ti impedisca di andare a trovare il compagno di 50 anni, ma per questo non ci vuole un matrimonio, per questo ci vorrebbe del buon senso, ci vorrebbe della misericordia, della civiltà e magari anche delle forme minime che possono anche essere riconosciute dalla legge, ma che sono un'altra questione. Sì. Qui stiamo parlando di una discriminazione che è fatta nei confronti delle persone omosessuali che non possono accedere a un istituto pur pagando le stesse tasse degli altri. Allora, la spiegazione è chiara, molto brevemente, e giusto per riassumere alla fine quello che ci siamo detti. In sostanza, se il Parlamento non si muove, il governo è pronto ad intervenire. Sì, comunque ricordo che in tutto il mondo, cioè quando parliamo di unioni civili alla tedesca, in Germania le unioni civili sono fatte soltanto per le persone omosessuali. Gli eterosessuali che vogliono hanno il matrimonio. Grazie Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme istituzionali. Saluto Monica Paffetti, sindaco di Orbetello, uno dei comuni coinvolti dall'alluvione di queste ore. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto qual è la situazione? Perché ho visto che dalle vostre parti ci sono ancora persone evacuate, persone soccorse di recente. Ci dà un quadro? Sì, abbiamo ieri sera nel momento appunto del picco del fiume abbiamo fatto un'evacuazione, un'ordinanza di evacuazione, abbiamo allontanato la gente che stava nelle zone maggiormente a rischio, poi dopo il fiume è riabbassato e quindi abbiamo avuto una quantità d'acqua che ha invaso una parte del territorio. Delle persone evacuate a oggi sono circa una ventina e sono sempre in albergo che non possono rientrare nelle case perché ci sono dei problemi, perché in queste case l'acqua ha raggiunto dei livelli alti e come tale non sono ancora abitabili. Questa è la situazione più grave. Poi la situazione grave è che nella parte dove il fiume ha trascinato, si sono riraggiunti dei livelli d'acqua da tutte le parti di almeno quasi un metro e quindi all'interno delle case, all'interno di case, all'interno di aziende abbiamo avuto la situazione sovrapponibile a quella del novembre 2012, quindi gente che ha fatto tutti i lavori e è stata appunto a casa. Ecco, veniamo a questo punto, sindaco. Novembre 2012, l'ultima alluvione e abbiamo visto praticamente le stesse scene. Com'è possibile? Da un punto di vista c'è il dato meteorologico che mi sembra evidente e palese che sta cambiando e quindi cambiano la situazione climatica. Noi abbiamo avuto l'episodio a novembre 2012 che c'erano venduta o perlomeno dal punto di vista scientifico era un episodio settecentennale che doveva ripetersi ogni 700 anni, sono passati due e noi abbiamo avuto un episodio analogo. Questa è la realtà. Quindi non c'è incuria di territorio, sindaco? L'incuria di territorio lo possiamo dare a livello nazionale, che c'è incuria di territorio in questo senso, però che i fiumi devono essere gestiti meglio, devono essere puliti di più, l'argine devono essere puliti di più, sicuramente. Noi dal novembre 2012 dovevamo avere un'opera di messa in sicurezza idraulica del territorio, un argine remoto che avrebbe protetto sicuramente questa parte che si è allagata oggi. L'opera è stato fatto il progetto, l'università, i ricorsi vari, il progetto è pronto ma l'opera ancora non c'è. Ancora non c'è, ma sempre per ricorsi al TAR, problemi di assegnazione della gara. No, quello no, il problema grosso c'è stato, secondo me, è legato al fatto che ci sono da fare degli espropri e quindi poi si cerca di andare incontro appunto ai cittadini per il discorso degli espropri e poi la burocrazia e poi devi fare il progetto, devi avere certe caratteristiche e poi c'è la partecipazione e poi c'è un sacco di problematiche e quindi per fare un progetto che dovrebbe essere immediato e realizzato è un'opera pubblica, si fa appunto perché serve per la sicurezza dei cittadini, si cerca sempre di andare incontro, di cercare di ascoltare tutti, ma l'ascoltare tutti alla fine porta al fatto di perdere tempi. Questa è la realtà. Grazie Monica Paffetti, sindaco di Orbetello. Ci fermiamo per una pausa, ci ritroviamo per la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato poco fa del vertice ASEM a Milano e soprattutto dei suoi effetti sulla viabilità, ma insomma per il vertice ASEM, come sapete, c'è anche qua in Italia il premier cinese. Ieri sono stati stretti molti accordi tra l'Italia e la Cina, degli accordi commerciali importanti, complessivamente 8 miliardi di euro. Sentiamo cosa c'è dentro. Per ora sono 8 miliardi, ma in futuro potrebbero anche crescere. È questo il valore stimato dei 20 accordi siglati ieri a Roma alla presenza del premier Renzi e del suo omologo cinese Li Keqiang. C'è una partnership strategica fra Cassa Depositi e Prestiti e China Development Bank, un accordo con Finmeccanica per la fornitura di 50 elicotteri, un progetto di collaborazione fra Enel e Bank of China e anche un'intesa per entrare nella società che possiede l'aeroporto di Parma e per acquistare navi da crociera, compensando così il calo di ordini occidentali. Una plettora di contratti, insomma, che segna un ulteriore tassello nella crescita degli investimenti diretti della Cina in Italia. Crescita che, secondo alcuni, starebbe suscitando i malumori del nostro primo partner commerciale extraeuropeo, gli Stati Uniti, in quanto apre le porte a Pechino su asset strategici italiani come la rete gas e quella elettrica. I nuovi investimenti hanno infatti una forte valenza geopolitica. La Cina vede nell'Italia non solo un trampolino per i mercati del Mediterraneo, ma anche per quelli del Nord Africa. E se da un lato è vero che questa nuova collaborazione assicura ossigeno alla nostra economia, dall'altro incontro darà anche ai cinesi voce in capitolo in settori delicati che riguardano lo sviluppo del nostro paese. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dovremmo avere in linea adesso Nerio Nesladek, che è il sindaco di Muggia. Buongiorno sindaco. Buongiorno, si fa per dire, non è una buona giornata. Non è una buona giornata, a Muggia, lo ricordiamo, siamo in provincia di Trieste, c'è stata una vittima a causa di una frana provocata dalle forti piogge di queste ore. Ci dà innanzitutto un quadro, così come abbiamo chiesto poco fa al sindaco di Orbetello, e come purtroppo io capisco che gli ascoltatori abbiano la sensazione di sentire una qualche ripetizione in tutto questo, però sono giornate così. Ci dà un quadro della situazione, sindaco? Ma guardi, io le devo dire, e non sembri che in qualche modo si è poco attenti alle cose, però stamattina stavo per fare un comunicato di soddisfazione per come era andata la cosa, nel senso che è passata una brutta bomba d'acqua, veramente un momento molto difficile, però la città nel complesso ha tenuto, cioè non ci sono stati grandissimi problemi se non in alcune zone, cioè per esempio un muro è venuto giù in una zona periferica, un muro privato di una casa privata, e tra l'altro poi il proprietario da subito ha fatto rimuovere, c'è stato qualche scantinato allagato certamente, molto fango sulla provinciale, ma sembrava che a parte qualche piccolo smottamento fosse andata bene. L'ultimo momento si è scoperta invece questa bruttissima, tristissima situazione in una casa sempre della strada del Lazzaretto, dove un angolo della casa è stato investito da uno smottamento, dentro c'era un bagno e dentro questo bagno c'era una signora che ahimè è rimasta sotto il fango. Si tratta di una zona dove ci sono alcune case di terreni privati, ovviamente, devo dire la verità, costruite negli anni 70 in maniera abbastanza audace, perché c'è un versante, sono accollate ad un versante con una ripida pendenza. C'era stato nei decenni precedenti qualche problema di instabilità che il pubblico, la regione ed il comune di Muggia avevano provveduto a sistemare con degli interventi mirati su terreni privati, tra l'altro neanche pubblici, e nulla però faceva presagire una roba del genere. Naturalmente una situazione di questo genere. La ringrazio, grazie a Nerio Nesladek, che è il sindaco di Muggia, e saluto un altro sindaco, quello di Trieste. Mi dicono che è caduta la linea col sindaco di Trieste, in questo momento Laura Faggin è là al telefono che sta cercando di recuperarlo, perché c'è stato un nubifragio piuttosto pesante anche a Trieste, ci sono ancora strade allagate, i racconti dei cittadini di Trieste che ci arrivano, le foto che stanno girando sui social network naturalmente sono delle foto che raccontano di una situazione ancora difficile, vediamo se siamo in grado di recuperarlo. Roberto Cosolino, sindaco di Trieste, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Come vanno le cose in città? Perché abbiamo visto immagini di strade allagate e anche qualche macchina. La situazione è sostanzialmente normalizzata. La precipitazione, come noto, è stata straordinaria e ha coinciso anche con il fenomeno dello scirocco, dell'alta marea e così via dicendo, quindi ci sono stati allagamenti inevitabilmente, ci sono state strade che ne hanno risentito nel corso della notte, ma direi che grazie a un lavoro che possiamo definire assolutamente straordinario di tutte le squadre impegnate, la situazione si è progressivamente normalizzata già a partire dalla prima mattinata. Avete una quantificazione dei danni già, sindaco? No, impossibile avere ancora una quantificazione per il momento. Per il momento i danni sicuramente ci saranno, l'essenziale è, a parte la tragedia che evidentemente suscita in tutti quanti noi dolore e cordoglio successa nel vicino comune di Muggia, non ci sono danni a persone, e c'è stata una capacità tempestiva di affrontare l'emergenza e anche soprattutto di informare i cittadini sulle criticità per evitare che ai danni e ai problemi si aggiungessero ulteriori problematiche. Grazie Roberto Cosolino, sindaco di Trieste, le auguro buona giornata. E prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, ci sono un paio di notizie appena battute dalle agenzie. La prima arriva dal presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, il quale racconta che la questione relativa al TFR in busta paga, dice, a noi risulta inserita nel disegno di legge di stabilità e quindi dovrebbe essere approvata oggi stesso dal governo, a differenza di quel che si era riuscito a capire nelle ore scorse. Possiamo esprimere soddisfazione sia per l'intuizione che abbiamo condiviso fin dall'inizio, dice Patuelli, sia per la costruzione della complessa normativa alla quale abbiamo dato un apporto costruttivo. E ancora c'è un nuovo drammatico appello di uno dei due tedeschi rapiti nelle Filippine dal gruppo terroristico islamico Abu Sayyaf. L'ostaggio racconta che i terroristi hanno già preparato la fossa e gliel'hanno mostrata in vista della scadenza dell'ultimatum che sarà fra due giorni, il 17 di ottobre. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, insomma, le notizie che ascoltiamo sono preoccupanti sul fronte dell'Ebola. La World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, ha comunicato ieri che c'è stato un aumento del 70% dell'epidemia, dei casi, e dunque un aumento molto molto preoccupante. Soltanto nelle ultime settimane abbiamo avuto l'ultimo caso in Germania, il caso a Dallas, l'infermiera, insomma comincia ad avvicinarsi a noi questa epidemia e si sta cercando di fare di tutto per evitare che il contagio diventi davvero grave, per contenerlo. Notizie sul fronte internazionale, quella che mi ha colpito di più, devo dire, è la Turchia, che invece di unirsi agli alleati per bombardare l'ISIS è andato a bombardare i curdi. C'è davvero qualche cosa che non va a Istanbul. Credo che forse sia importante fare una riflessione all'interno della NATO, perché si vanno ad aiutare i criminali. A proposito di criminali e di persone che vivono nell'illegalità, io ho con me ai microfoni di America 24 un grande esperto di criminalità organizzata, e cioè Nicola Grattere, è il procuratore aggiunto del distrettuale antimafia nella procura di Reggio Calabria, si occupa di 'Ndrangheta, la mafia calabrese, ma è stato nominato da Renzi presidente della commissione per la riforma della legislazione antimafia, e dunque è qui con me. Buongiorno Gratteri. Buongiorno. Lei come reagisce davanti a una struttura organizzata di questo genere? Perché lei si occupa di strutture criminali organizzate. Secondo lei è una struttura criminale organizzata questa dell'ISIS? Sì, è una struttura criminale organizzata, però penso sono di quelle strutture destinate ad avere un fine. La differenza invece delle mafie italiane, in particolare dell''Ndrangheta, sono invece delle organizzazioni criminali mafiose che sono destinate a durare con queste regole fin quando finirà l'uomo sulla terra, perché le nostre mafie, in particolare l''Ndrangheta, vive del consenso popolare, si nutre del consenso popolare, sta tra di noi, non è un corpo estraneo alla società. Di fatto lei dice che in Italia le mafie, non soltanto 'Ndrangheta, esistono perché vanno a supplire delle carenze dello Stato. Sì, l''Ndrangheta è un sistema che è abbastanza articolato, molto presente sul territorio e che in parte il territorio calabrese, ma soprattutto della provincia di Reggio Calabria, si è sostituito a pezzi dello Stato, a pezzi delle istituzioni. Gratteri è qui, se non sbaglio, perché riceverà questa sera il Civil Courage Award. Se lo possiamo tradurre, il premio per il coraggio civico, giusto? Sì. Ecco, com'è nato questo premio? Ma sono stato contattato e mi hanno detto che sono stato selezionato tra decine di proposte di altre personalità del mondo e non so perché hanno pensato a me. Non so perché, adesso fa il modesto, non so perché. Io vorrei aggiungere, perché un po' l'ho studiato questo Civil Courage Award, e devo dire che Gratteri è il primo italiano, è un premio che viene consegnato al Council on Foreign Relations, quindi un premio molto importante anche sul piano internazionale. È un premio che vuole riconoscere quelle persone che a proprio rischio cercano di difendere, di portare avanti valori per il coraggio civico e difendere, tutelare i deboli, le libertà. Gratteri, lei ha paura ogni tanto? Sì, lo sento, perché quando uno si ha paura diventa la lingua amara. Però è la cosa importante dominare la paura, perché altrimenti non si possono fare certe cose, altrimenti certe idee poi non si possono realizzare. Beh, io devo dire, l'ammiro molto per quello che sta facendo, anche perché l'Andrangheta mi sembra che stia diventando una delle più importanti organizzazioni di criminalità organizzata del mondo. E ormai è dappertutto. Sì, è l'unica mafia presente in tutti e cinque i continenti. Mi reco spesso in Sud America, ogni settimana in Europa, sono qui negli Stati Uniti, perché proprio l'Andrangheta è presente ovunque, quindi bisogna tenere rapporti bilaterali con gli Stati. Ad esempio, l'ultima indagine della Newbridge che abbiamo fatto qui con la procura di New York, eravamo collegati con 16 paesi del mondo. Ecco, ci racconti di questa operazione, la Newbridge. Dopo la Pizza Connection è stata la prima indagine, grossa indagine, che ha visto questo collegamento diretto tra l'Italia e gli Stati Uniti. E c'era un forte interscambio di eroina e cocaina, e c'erano degli indranghetisti che stavano investendo milioni di euro su New York. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche a New York ci sono centinaia di indranghetisti qui per fare affari, qui per vendere cocaina. Qual è la soluzione? Quali sarebbero le sue proposte di riforma che presenterà il Presidente del Consiglio alla fine del mese? Io mi sono posto con questa commissione, della quale mi onoro di presiedere, di creare un sistema tale che non sia conveniente delinquere. Intanto non abbassare minimamente il livello di garanzie degli indagati e degli imputati. Io sono per il rispetto assoluto delle garanzie costituzionali. Creare un sistema informatizzato, cioè applicare l'informatica del 2014 al codice, per abbassare i tempi, i costi del processo e quindi il potere discrezionale dell'uomo, del giudice. E poi non rendere conveniente delinquere. Vuol dire commettere un reato e capire e sapere che la sanzione, capire che il prezzo, tra virgolette, da pagare è molto più alto rispetto al guadagno della commissione del reato. Ecco, vedendo le cose qui dall'America, devo dire, c'erano alcune cose che succedono da noi che mi lasciano sbalordito. A un certo punto ci fu la notizia che il sindacato della polizia avrebbe indotto uno sciopero, lo sciopero dei poliziotti. Ecco, lei, come da magistrato, come reagisce quando sente o legge una cosa di questo genere? Dico due cose apparentemente contrastanti. Nella Polizia di Stato c'è una forte presenza dei sindacati che certe volte quasi impediscono di lavorare bene al regime, cioè molte volte si difendono gente anche che ha commesso reati, anche ha rubato, e questo non è accettabile. Al contempo devo dire che non è possibile tenere gli stipendi bloccati per tanti anni, non è possibile mandare in giro i poliziotti con macchine fatiscenti o con divise stracciate. Se l'Italia fosse riformata nel modo giusto, se alcune delle sue proposte fossero accettate, beh, lei crede che c'è la possibilità di cambiare un po' la cultura del nostro paese? Guardi, io con il progetto che stiamo scrivendo in questa commissione, io penso che noi potremmo abbattere, se dovesse essere approvato in blocco, noi potremmo abbattere nell'arco di 5-6 anni anche l'80% della mafia presente in Italia. Stiamo lavorando molto intensamente su questa commissione di riforma, perché vogliamo depositare e consegnare al Presidente Renzi il prima possibile il lavoro. Io sono ottimista sulle cose importanti che stiamo scrivendo, poi ovvio bisogna avere la forza numerica in Parlamento di farle passare certe riforme, ma se dovessero passare tutte in blocco, noi abbatteremmo le pendenze anche del 70% tranquillamente. Secondo lei l'Italia oggi è a una svolta, cioè o riusciamo a fare le riforme che dobbiamo fare e agganciarci a un treno che ci porta verso il futuro, oppure rischiamo poi di precipitare nei fondali del Mediterraneo, ecco, come la vede la cosa? Ecco. Io penso che questo è il momento buono per fare le modifiche, è il momento buono perché si sta meno bene rispetto a pochi anni fa e quindi la gente è in grado di capire, di accettare certe modifiche radicali, certe sterzate decisive. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13.